2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati a 2024, questa è la puntata del 28 settembre 2013. Questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Vi annuncio già da questo momento che la prossima settimana, in concomitanza con l'avvio del nostro nuovo palinsesto che prende il via a partire da lunedì ufficialmente, ma a noi riguarda il weekend, interessa il weekend, e quindi dalla prossima settimana 2024 andrà in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24, quindi come sempre al sabato pomeriggio tra le 15 e le 16, e poi in replica la domenica sera tra le 23 e le 24. Ci trovate anche su Twitter, su Facebook o via posta elettronica, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre ringrazio Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. In questa puntata parleremo di sicurezza delle reti e anche del dossier Telecom Italia, tra le altre cose, come sempre ci saranno le nostre Digital News. Ma iniziamo da un tema di cui si è dibattuto molto e soprattutto in Germania, in Europa, poi naturalmente se ne è parlato anche negli Stati Uniti, ma in Germania sono particolarmente attenti alla privacy. Allora, si è parlato di una delle nuove funzioni del nuovo iPhone, il 5S, che si chiama Touch ID. Questa funzione è di fatto un lettore di impronte digitali molto sofisticato, molto evoluto, che viene utilizzato per accedere al telefono, quindi per sbloccarlo quando si blocca al posto del PIN. Oppure può anche essere utilizzato per autorizzare gli acquisti nel negozio digitale dell'Apple, l'iTunes. Allora, Apple, va detto, non è la prima, perché qualche anno fa Motorola aveva inserito un lettore di impronta digitale in uno smartphone, ma questo sistema non aveva avuto tanto successo. Beh, non è la prima volta che Apple introduca una tecnologia già utilizzata da altri, perché non è vero che Apple inventa, ogni tanto ha inventato qualche cosa, ma molto spesso prende tecnologie che altri già hanno utilizzato ma che non hanno avuto successo perché non sono stati capaci di creare una buona usabilità di queste tecnologie. E anche in questo caso Apple ha preso il lettore di impronta digitale, una cosa che esiste già da tantissimo tempo, e l'ha inserito nel nuovo smartphone. Allora, per l'iPhone è stata utilizzata una tecnologia di un'azienda che si chiama Authentech, che è un'azienda che Apple ha acquisito nel 2012, pagandola una cosa come circa 330 milioni di dollari. Allora, nel frattempo anche altri produttori stanno pensando a questa possibilità, sia Samsung, che naturalmente è il concorrente principale di Apple, il più grande produttore di telefonini al mondo, che al momento si dice non particolarmente interessata, ma probabilmente c'è chi dice che sul mercato non esista un sensore di questo genere affidabile come quello utilizzato da Apple. Potrebbe presentare qualche cosa nei prossimi mesi HTC, insomma vedremo. Comunque nel mercato si sta discutendo di questa ipotesi, e fatto sta che i sistemi biometrici per identificarsi su questo tipo di terminali come gli smartphone e i tablet si moltiplicheranno nei prossimi anni. Fino a poco tempo fa ci sono ancora lettori di impronta digitale che venivano utilizzati sui computer portatili, perché sicuramente quello dell'accesso sicuro al terminale è un tema molto sentito. E naturalmente ci si fanno molte domande sulla privacy e sulla sicurezza. Dicevo, in Germania se ne è discusso molto, anche perché un gruppo di hacker ha fatto una dimostrazione, più che una dimostrazione direi una provocazione, comunque una dimostrazione molto provocatoria e non facilmente replicabile o realizzabile, cioè ha clonato un'impronta digitale ed è entrato in un iPhone. Sapete che la Germania è uno dei paesi europei, assieme a Francia e alla Gran Bretagna, dove l'iPhone nuovo è già disponibile sul mercato. In Italia arriverà entro la fine dell'anno. Allora, sono molti anni che si conoscono queste tecniche, quindi riprodurre un'impronta digitale non è certo una novità, così appunto come non è una novità assoluta l'impronta digitale per accedere a un terminale come l'iPhone. Ci sono varie tecniche per riprodurre in modo più o meno preciso un'impronta digitale. In ogni caso, questi tedeschi hanno fatto una fotografia ad altissima risoluzione di un'impronta digitale lasciata sul vetro. Poi hanno utilizzato una stampante laser, incidendo su un materiale molto particolare l'impronta digitale, quindi hanno riprodotto l'impronta digitale. È una cosa non facile da riprodurre. Loro hanno dichiarato, hanno detto che hanno impiegato circa 30 ore, non hanno detto quanti soldi. Comunque, diceva, è sicuramente una provocazione ed è un motivo di dibattito. Un dibattito che continua un po' in tutto il mondo, e anche noi vogliamo approfondire per cercare di capire quanto sicura è questa tecnologia. Va detto che ad esempio in questo caso loro hanno fatto una fotografia in modo molto facile, perché tutto era organizzato. Se uno vuole farla rubando l'impronta di una persona, beh, deve trovare un'impronta pulita che venga lasciata su una superficie, insomma, facilmente fotografabile, se si vuole partire dalla fotografia. Tuttavia, vi presento il nostro primo ospite. Fabio Martinelli è ricercatore del CNR ed è responsabile del programma sicurezza all'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. Benvenuto a 2024. Grazie e buona giornata a tutti i radioascoltatori. Allora Martinelli, partiamo proprio dal fattore sicurezza. Quanto è sicuro in generale, insomma, in linea di principio, un sistema di questo tipo per accedere a un terminale come l'iPhone, o comunque in generale un terminale che può essere di qualsiasi tipo, anche un lettore che può essere piazzato su una porta per accedere alla porta al posto della chiave, insomma? Beh, questa è una buona domanda e la risposta è: dipende dal contesto. Le impronte digitali, come altri meccanismi di identificazione biometrica, se usati in maniera propria e sotto un certo, diciamo, contesto, sotto un certo controllo, sono strumenti precisi per riconoscere l'identità. Però utilizzati in maniera, in ambienti cosiddetti non controllati, è possibile falsificare l'impronta. Mi spiego. Il riconoscimento dell'impronta si basa sul fatto che le nostre creste, sui nostri polpastrelli, esistono una serie di creste e valli che sono peculiari per ogni persona, in quanto modo sono distintive e hanno anche il carattere di non variare nel tempo. Quindi, facendo un'analisi di questa mappa, tipicamente nelle impronte digitali, anche se tutti vedono l'immagine con tutte queste linee, da un punto di vista matematico quello che si fa è prendere non la linea ma i punti di biforcazione, che vengono chiamati minuzie, e studiare come questi punti di biforcazione sono tra loro correlati. È abbastanza vero che tra noi tutti questi sono, diciamo, con un'altra probabilità messi in maniera diversa, quindi è possibile identificare in maniera precisa due persone, diversificarle tramite questo meccanismo. Cioè, diciamo che in assoluto ci potrebbe essere un'impronta uguale ad un'altra, però è bassissima la probabilità. La probabilità è molto bassa. Poi esistono due problemi, uno che si chiama di identificazione e uno di autenticazione. Il problema di identificazione è quando io ho un'impronta e devo cercare, diciamo, in un database di milioni se ce n'è una simile a quella. Questo non è il problema dell'autenticazione, in cui di fatto si verifica se l'impronta che viene messa da una persona corrisponde alla prima impronta che era stata messa nel sistema durante la fase di registrazione. Quindi questo è molto più facile, perché si devono verificare solo due impronte, e questo è quello che è il problema di autenticazione. In questi casi la precisione è molto elevata, ma bisogna stare attenti, bisogna essere sicuri che il lettore dell'impronta riceve effettivamente l'impronta della mano umana e che non è stata alterata. Quindi, per cui si dice che i meccanismi di biometria funzionano molto bene per il controllo accessi, dove vi è una terza parte che effettivamente verifica che l'impronta che viene messa è quella della persona. Esattamente, per esempio, come avviene negli Stati Uniti quando uno arriva all'aeroporto e deve mettere l'impronta del dito direttamente davanti al tecnico. La persona dovrebbe anche verificare cosa c'è nel polpastrello, che il polpastrello in qualche modo non sia stato alterato, però questa tecnica. Sotto queste circostanze il meccanismo non è un meccanismo molto preciso ed affidabile. Il problema è che l'autenticazione, per esempio, che viene fatta sui cellulari, in cui non c'è nessuno oltre a me e il cellulare a controllare che io non ci metta invece del mio dito un dito posticcio o qualcosa che ho messo sopra il dito, in questo caso è tecnicamente possibile, diciamo, ricreare un'impronta falsa che il cellulare interpreta per quella vera. E quindi, diciamo, Fin qui la spiegazione dello scenario. A questo punto, sempre parlando di sicurezza, uno potrebbe dire: ma se io voglio entrare su quello smartphone di una persona, perché io voglio carpire le informazioni su quello smartphone, invece di con un processo molto complicato e forse anche molto costoso riprodurre l'impronta digitale che magari io rubo su un bicchiere, magari al bar, io appoggio il bicchiere, si può con una certa tecnica rubare la mia impronta digitale, ma appunto è un processo un po' complicato. Forse a quel punto basta che uno faccia un video a distanza e prima o poi trova il PIN con il quale io accedo al terminale. Forse è più facile in quel caso lì. Allora, qui sono due strumenti che in genere vengono usati in maniera, che possono essere usati sia insieme che in maniera separata. Quindi se uno usa il PIN è sicuramente più facile carpirlo, però il PIN in genere è un oggetto che può essere, diciamo, cambiato. Una volta che viene carpito si cambia. La problematica dell'impronta digitale è che l'impronta che lei mette è esattamente la sua, no? Quindi in qualche modo, una volta che qualcuno ha carpito la sua impronta, ci ha messo 1.000-2.000 euro, però ogni volta ha quella sua impronta e la può usare su quel sistema, sul suo iPad, se lei usa l'impronta biometrica sulla porta di casa, anche sulla porta di casa. Perché? Perché l'impronta è la sua. Mentre le PIN ne esistono migliaia e lei può scegliere, quando uno viene compromesso ne sceglie un altro, l'impronta è una. Quindi una volta che viene compromessa, lo sarà per sempre. Quindi, seppur il costo iniziale di compromissione è alto, i risultati poi sono notevoli. Quindi questo è, diciamo, lo scenario. Le dico, è uno scenario diverso da quello in cui lei, invece di autenticarsi a un cellulare che è il suo, vuole tentare di accedere a un sistema dove c'è una guardia fisica che controlla che sul polpastrello non ci sia nulla di strano. A quel punto il meccanismo di identificazione biometrica è sicuro, quasi al 100%. Molto chiaro, molto chiaro. Ci fermiamo per circa un minuto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci risentiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, stiamo parlando di impronte digitali. Quanto sicuri sono questi sistemi per accedere, ad esempio, ad un terminale come uno smartphone, un tablet? Ne stiamo parlando con Fabio Martinelli, un ricercatore del CNR che si occupa anche di questi temi. Martinelli poco fa ci diceva che uno dei temi di dibattito, di discussione, una delle preoccupazioni è che la impronta digitale, comunque il dato biometrico, se viene rubato o riprodotto, quello non si può cambiare, mentre il PIN o la password in caso di furto può essere cambiata e ricreata da zero, non è che ci possiamo cambiare l'impronta digitale o l'iride. Allora, Martinelli, è quindi da escludere che in futuro questi strumenti si diffondano? Io penso che una ditta come le più grandi ditte commerciali, non voglio fare pubblicità, abbiano il potere di imporre qualsiasi cosa. Quindi il fatto che sia più facile usarlo, alla fine la gente non sarà preoccupata di questo, lo userà. E avranno delle conseguenze, nel senso che sarà possibile in certi casi, ma penso con una probabilità bassa, che il loro cellulare sia in qualche modo compromesso se l'unico meccanismo di autenticazione che usano è quello dell'impronta. Io a quel punto suggerirei di usare quello che viene chiamato two-factor authentication, cioè autenticazione a due fattori, il PIN e l'impronta, che possono anche essere utilizzati, se si vuole, programmandoli insieme. Quello che io vedo come problematica maggiore è che se questa moda di avere il riconoscitore di impronte digitali su tutti gli strumenti, noti che io sono davanti a me un computer che ho da 6 anni, che ha sempre avuto questo lettore davanti a sé, io non l'ho mai usato. La problematica è questa: se ci sono, in questo momento penso che solo l'anno scorso sono stati venduti 200-300 milioni di strumenti che lei citava, se nei prossimi 2 anni ne vendono 500 milioni con il riconoscitore di impronte biometriche inserito, di fatto vi è una ditta che può avere un database di 500 milioni di impronte di tutti noi. Questo è un problematica di privacy che è molto importante, che è relata al fatto, scollegata, rispetto al fatto che io possa accedere o meno al cellulare. È una problematica per cui la mia impronta digitale è conosciuta da una ditta privata. Certo, sì. In ogni caso, diciamo, nel caso specifico che stiamo commentando, Apple dice che i dati sono contenuti solo sullo smartphone, quindi non vengono comunicati a nessun database. Questo è quello che Apple dice, sì. Certo. È vero anche che sa che lei, che Apple memorizza regolarmente la locazione del cellulare, non l'aveva mai detto fino a quando non è stato scoperto. Cioè Apple ha un meccanismo per cui... Diciamo GPS... che un po' tutte queste aziende fanno cose che una volta che poi vengono scoperte sono oggetto di dibattito e a volte di preoccupazione. Oggetto di dibattito serio, sì, nel senso sì, che sì. La sua impronta, una volta che lei l'ha inserita, io francamente non conosco il formato in cui viene inserita, si possono essere due meccanismi di memorizzazione, o l'immagine stessa, cosa che non penso, o appunto il template delle minuzie. Però dal template delle minuzie è anche possibile ricostruire un'altra impronta, quindi una volta che lei ha la mia impronta, il governo degli Stati Uniti per esempio ce l'ha, perché io ogni volta che vado negli Stati Uniti lascio la mia impronta, quindi la mia impronta in questo modo è, il governo degli Stati Uniti ce l'ha. Mi risulterebbe un po' più strano che ce l'avesse anche una grossa ditta privata che è Apple, così come mi risulterebbe più strano che ce l'avesse una ditta coreana. Questa è la situazione, non penso che diciamo le persone comprendono, siano interessate a questo aspetto, quando l'aspetto invece di avere un oggetto di consumo e di interesse è prevalente. Quindi gli aspetti di privacy secondo me non sono tenuti in abbastanza considerazione, mentre rappresentano una delle problematiche maggiori. Cioè io sono molto più preoccupato del fatto che è possibile acquisire database di enormi quantità di cittadini in paesi evoluti, più che qualcuno di questi cittadini possa essere, diciamo, avere il cellulare compromesso da un attacco da 1.000-2.000 euro. Cioè sono due, in qualche modo, sono due problematiche diverse legate allo stesso meccanismo di protezione del cellulare. Sì. Da una parte il meccanismo non funziona, dall'altra il meccanismo crea delle problematiche ulteriori. Sì, le faccio però una domanda ulteriore sui sistemi biometrici, comunque basati su dati biometrici per accedere a locali o comunque accedere anche a strumenti elettronici. Possiamo pensare a che tipo di evoluzione per i prossimi anni? Ma ne esistono di tantissimi tipi. Esistono quelli che misurano le capacità fisiologiche, quindi riconoscimento delle impronte, riconoscimento della retina che viene usato per esempio, o riconoscimento della faccia che viene usato da alcuni telefoni cellulari, ma può anche essere utilizzato per esempio dal passaporto elettronico. Questi sono tutti meccanismi di caratteristiche fisiologiche che vengono utilizzati e, come le dicevo, il controllo di frontiera è uno strumento secondo me efficace, perché lì c'è sempre qualcuno che in qualche modo controlla che l'acquisizione dell'immagine sia fatta in maniera regolare. Ad esempio, una tipica soluzione sui telefoni di basso livello è fare una foto della faccia, dato che l'immagine ha 2D e si riesce ad aprire il cellulare. Questo è un altro trucco molto più semplice. Dall'altro esistono dei riconoscimenti comportamentali, per esempio della firma, dove con firma si intende scrivere con una penna facendo una certa pressione su un testo e il sistema riconosce come viene fatto il tratto, in che punti è stata fatta la bidimensionale, ma anche in certi punti che tipo di pressione è stata data. E questi vengono utilizzati per esempio dalle carte di credito. Esistono in questo momento dei cellulari che riconoscono come sono tenuti in mano, da che persona, perché ognuno ha il suo meccanismo. È possibile autenticare, identificare una persona anche semplicemente dalla frequenza con cui digita i tasti sulla tastiera, perché ognuno di noi ha la sua, o quantomeno, scusi, la situazione è un po' differente, ognuno di noi ha un suo modo di digitare i tasti che, diciamo, in un gruppo ristretto lo può identificare. Quindi esistono una serie di applicazioni enormi, io le vedo anche molte di queste più positive di altre. Per esempio, la digitazione dei tasti non è un qualcosa che poi possa essere sfruttato contro di me, mentre l'acquisizione delle mie impronte digitali, possiamo pensare anche il meccanismo inverso, per cui io dal template che dentro il cellulare ci ricostruisco un'immagine e la metto dentro il bicchiere. Pensiamo a uno scenario di questo tipo: invece di utilizzare l'immagine per entrare al cellulare, prendiamo l'immagine che ho dentro il cellulare e mettiamolo in un bicchiere di un qualsiasi scena del crimine. Chiaro, questa è un'ipotesi assolutamente di scuola e fantasiosa, però tecnicamente possibile. E chiaramente questo implica qualcosa, fa capire quanto l'informazione possa essere rilevante. Inoltre ci sono alcuni diciamo, meccanismi di riconoscimento biometrico, quello della retina, da cui è possibile anche conoscere certe malattie. Cioè dallo stato della retina si riesce a conoscere certe malattie, quindi certi lettori comportamentali o fisiologici hanno anche delle problematiche di privacy abbastanza significative. Io penso che sarà un grosso sviluppo perché gli aspetti di, diciamo, per cui è più facile e meglio utilizzarli, in qualche modo nella stragrande maggioranza delle persone non controbilanciano i rischi della privacy, che però io, lavorando nel settore, ritengo molto gravi e seri. Martinelli è stato molto chiaro, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, a presto. Grazie, grazie. Tema molto interessante, quindi vi invitiamo anche ad approfondirlo su internet, ci sono molti strumenti, molti approfondimenti. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo tra pochi minuti. 2024. La seconda parte di 2024, vi ricordo che dalla prossima settimana con il nuovo palinsesto di Radio 24 la nostra trasmissione andrà in onda tra le 15 e le 16 nel pomeriggio di Radio 24, sempre il sabato, e poi di nuovo in replica la domenica sera tra le 23 e le 24. Io sono Enrico Pagliarini, ringraziamo anche Filippo Aureggi che si occupa della parte tecnica in questa giornata, in questa puntata di 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Tra poco parleremo del dossier Telecom Italia, ci sono stati moltissimi commenti, cercheremo di fare il punto su alcuni temi, primo fra tutti quello della sicurezza nazionale, visto che alcuni hanno lanciato una sorta di allarme, si sono preoccupati, è un allarme giustificato oppure no? Ne parliamo tra poco dopo alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Le prime due notizie riguardano i palazzi romani, diciamo così, sono due notizie che riguardano la diffusione delle tecnologie. La prima arriva dalla conferenza unificata Stato-Regione che ha approvato il decreto scavi. Ricorderete che ce ne siamo occupati anche a 2024, c'era molta attesa soprattutto tra gli operatori di questo decreto che prevede semplificazioni per la posa della fibra ottica. Il decreto è diviso in sezioni a seconda della tecnologia utilizzata, mini trincea, quindi ci sono macchine anche automatiche che fanno un piccolo foro lungo marciapiedi, strade eccetera eccetera, oppure ci sono le famose perforazioni orizzontali, famose si fa per dire, e anche lo scavo tradizionale con le ruspe eccetera eccetera. Ne abbiamo parlato 2024 di queste nuove tecnologie e le regole sono fatte anche in base all'infrastruttura stradale, cioè diverse tra strade urbane, extraurbane e autostrade. Il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza ha firmato il decreto ministeriale che sancisce tempi e modi del passaggio dalla carta all'ebook a scuola. La novità verrà introdotta gradualmente a partire dal prossimo anno scolastico. Ricordo che abbiamo parlato di scuola digitale a 2024 con un'interessante intervista. Se andate nel nostro archivio trovate sicuramente la puntata ed è sicuramente una bella esperienza quella di Impara Digitale, un'associazione nata a partire da una scuola, da un liceo nella città di Bergamo. Rinviare l'adozione di interventi concreti per l'agenda digitale, dalla fatturazione elettronica alla sanità digitale, dal cloud computing all'e-procurement, dai pagamenti elettronici alla conservazione elettronica degli archivi fiscali, tutto ciò, rimandare tutto ciò impedisce di cogliere benefici economici alla nazione pari, pensate, a circa 1 miliardo di euro ogni mese. Questa stima è stata fatta e presentata in settimana dall'osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano. Una commissione della Federal Aviation Administration, l'agenzia del governo americano che regola il settore aereo, ritiene che si possano mantenere accesi dispositivi elettronici personali come smartphone e tablet senza problemi anche durante le fasi di decollo e atterraggio di un aereo. Sapete, molti di voi avranno preso un aeroplano e alla partenza o anche prima di arrivare viene chiesto di spegnere i dispositivi elettronici. Allora, secondo la Federal Aviation Administration, questa commissione della Federal Aviation Administration, l'unica cosa che non sarebbe permessa, vabbè, ovvio, è il collegamento radio, quindi nessuna telefonata e nemmeno nessun collegamento ad internet. Questo è un parere che dovrà essere approvato dall'agenzia e sicuramente in caso di approvazione sarebbe un precedente importante e avrebbe un peso per tutte le altre agenzie del mondo come la nostra ENAC. Sicuramente in Europa una decisione del genere verrebbe coordinata tra tutti i paesi. C'è una società che si chiama Mubi, M-U-B-I. Mubi ha lanciato in Italia un servizio che permette di vedere 30 film al mese a 4,99€ oppure 2,99€ per chi sceglie di abbonarsi per un intero anno. Si tratta di un servizio di video on demand per gli amanti del cinema d'autore, perché c'è un archivio dedicato proprio ai film d'autore, quindi non i film da box office, da classifica, ma i film un po' più particolari. Comunque prezzo sicuramente interessante, 5 euro al mese oppure 3 euro al mese per chi fa un abbonamento lungo un anno. Parliamo di smartwatch. Mentre è arrivato sul mercato Galaxy Gear, l'orologio di Samsung a 299€, e c'è chi critica questo prezzo un po' troppo elevato, Sony ha risposto con la seconda edizione del suo orologio smart, con prezzi che partono da 189€. Si chiama Smartwatch 2, è un orologio che non telefona, non ha una fotocamera, ma funziona collegandosi con molte applicazioni Android e ha un'autonomia di tutto rispetto, perché se non lo si usa in modo massiccio arriva fino a 7 giorni. Abbiamo già detto che siamo un po' scettici su questa generazione di smartwatch, ma da segnalare ci sono anche altre due proposte, l'americano Pebble e anche l'italiano Amwatch. Ultima notizia riguarda Windows, riguarda la Microsoft. Allora, ricorderete che fin dall'uscita sul mercato abbiamo espresso dubbi su Windows RT, il sistema operativo per dispositivi con processore ARM. Ora anche la Dell ha annunciato di abbandonare RT, preferendo tablet con Windows 8.1 e processore x86. A questo punto Microsoft resta da sola ad offrire RT con il nuovo Surface 2 in arrivo il prossimo mese, quindi in bocca al lupo. In questi giorni uno dei temi, anche addirittura nelle prime pagine di tutti i quotidiani, è stato Telecom Italia. Naturalmente noi vorremmo che di tecnologia, dello sviluppo delle reti, della sicurezza e della strategia verso la digitalizzazione del paese si parlasse più spesso e non soltanto quando ci si preoccupa delle sorti di un'azienda, delle sorti delle persone che lavorano in questa azienda e naturalmente anche del futuro digitale del nostro paese. Tuttavia, dopo che è stato annunciato questo accordo, un accordo tra Telefonica e i soci che controllano Telco, la holding di controllo di Telecom Italia, ci sono stati tantissimi commenti, molti a livello politico. Devo dire che in questo caso molti hanno anche dimostrato la loro ignoranza non solo della tecnologia, ma anche del funzionamento base delle reti di telecomunicazione. Molte di queste cose andrebbero programmate, pensate, progettate, perché si tratta di infrastrutture, di servizio a tutta l'economia del paese. Anche di questo parleremo in questa puntata. Vogliamo partire da una sorta di allarme che è stato lanciato, perché per alcuni il cambio di controllo di questa società, che di fatto è proprietaria e gestisce la rete di accesso alla telefonia, ma soprattutto e sempre più alla internet, alla rete internet, il cambio di controllo di questa società che passa da italiani a stranieri, poi se uno va a controllare la maggioranza in termini assoluti già oggi o già ieri potremmo dire la maggioranza è in mano straniera, perché ci sono molti fondi, gran parte di questa azienda è sul mercato. Tuttavia il nocciolo di controllo passa dalle mani degli italiani alle mani di spagnoli. Allora alcuni hanno detto: ma questo è anche un problema di sicurezza nazionale, perché la rete è anche un asset strategico per le nostre comunicazioni. Allarme giustificato o no? Quanto giustificato? È con noi Massimo Bernaschi, che è il responsabile delle infrastrutture di calcolo di rete presso l'Istituto per le applicazioni per il calcolo del CNR. Bentornato a 2024. Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori. Questo allarme è giustificato? Quanto è giustificato a proposito di sicurezza nazionale delle reti? L'infrastruttura fisica chiaramente ha un ruolo fondamentale alla comunicazione, però credo che dire che viene completamente messa in crisi e quindi è un problema, di un'emergenza per la sicurezza nazionale, mi pare eccessivo, perché per quanto la rete Telecom rimanga quella più pervasiva, almeno a livello di accesso domestico e di piccole aziende, in realtà il traffico internet non viaggia più solo esclusivamente sulla rete Telecom, che ha anche una sua rete per il transito internet importante, ma non è più l'unica, e quindi il problema è un problema esistente, ma probabilmente, per come è stato presentato, in una forma eccessiva. Ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, riprendiamo tra poco. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Continueremo a parlare di Telecom Italia anche tra poco, sarà con noi Stefano Quintarelli. Adesso è con noi Massimo Bernaschi, che lavora al CNR, all'Istituto Applicazioni per il Calcolo a Roma. A parte il controllo della rete internet, Bernaschi, quindi diciamo indipendentemente da chi controlla la rete, sappiamo che dalle informazioni anche che abbiamo commentato questa estate, dopo le rivelazioni vere o no, poi su questo non abbiamo una conferma al 100% di Snowden su quello che fa la National Security Agency, diciamo che una cosa l'abbiamo capita un po' di più durante questa estate, cioè che per proteggere le informazioni, i dati che transitano sulle reti internet, indipendentemente da chi controlla poi queste reti, che siano di operatori nazionali o internazionali, bisogna cifrare, quindi utilizzare la crittografia per proteggere questi dati. Allora, diciamo, a proposito di sicurezza nazionale, se ci fossero, io poi non so se esistono e fino a che punto sono implementate, delle buone policy, delle buone politiche di cifratura e quindi di protezione dei dati sensibili, quindi dell'esercito, dei servizi segreti, dei ministeri in generale, ma poi potrei estendere anche alle aziende, perché molte aziende fanno e producono cose che sono strategiche, quindi sono sensibili. Insomma, diciamo, una buona policy di cifratura è sufficiente? Sicuramente aumenta il livello di sicurezza fino al punto in cui, a meno di intravedere degli scenari veramente fantascientifici, cioè in cui qualcuno, ad esempio l'NSA, tanto per nominare un'organizzazione che è balzata appunto alla ribalta in questi ultimi tempi, sia in grado di decrittare senza possedere le chiavi dati e comunicazioni che sono state cifrate con algoritmi che, vorrei sottolineare, sono stati analizzati da ricercatori indipendenti alla ricerca di possibili falle per anni senza individuarne. Quindi, al di là appunto di questo scenario, direi abbastanza fantascientifico, la corretta applicazione delle procedure di crittografia, il corretto utilizzo delle chiavi garantisce, o comunque eleva talmente tanto il livello di sicurezza, che la semplice intercettazione diventa ovviamente comunque qualcosa che si potrebbe, si dovrebbe evitare, ma che non può mettere in crisi la sicurezza delle comunicazioni. Quindi potremmo spostare l'attenzione, cioè a chi dice occhio che il controllo della rete è un problema di sicurezza nazionale, potremmo suggerire di spostare l'attenzione sulla cifratura, cioè se vogliamo avere una sicurezza nazionale robusta, poniamo più attenzione alla cifratura, quindi anche delle informazioni delle istituzioni. Assolutamente, il corretto utilizzo della crittografia e delle procedure con cui deve essere utilizzata la crittografia, che poi non è soltanto una procedura matematica, ma va appunto anche implementata a livello software in maniera corretta, è sicuramente la strada giusta. La protezione dell'infrastruttura è importante, ad esempio lo è anche per problemi di affidabilità, di disponibilità del servizio, ma dal punto di vista strettamente della sicurezza è molto più importante la protezione a livello, diciamo, software del dato piuttosto che a livello di intercettazione, perché evitare completamente l'intercettazione è già adesso piuttosto difficile, perché anche adesso molti dati che apparentemente viaggiano su una rete protetta, in realtà a un certo punto il loro percorso transitano sulle reti che sono controllate da qualche altra organizzazione. Che questa altra organizzazione sia disponibile a far inserire ad un governo straniero una sonda, questo non lo possiamo sapere, però visto le ultime informazioni non lo possiamo certamente escludere. Certo. Un'ultima domanda, Bernaschi, a proposito delle informazioni, chiamiamole sensibili, esercito, ministeri, eccetera, eccetera, siamo certi che oggi queste informazioni transitano in modo sicuro? Perché chi grida l'allarme in vista del cambio di proprietà di una società come Telecom dà per scontato che oggi la situazione sia una buona situazione di sicurezza, di tranquillità. Sicuramente, ad esempio, esercito, marina, aeronautica, diciamo in generale, le forze armate hanno avuto nel passato delle proprie infrastrutture per comunicazioni indipendenti dalla rete Telecom e quindi a questo punto di vista la sicurezza di quelle infrastrutture non viene impattata da questo eventuale cambio di proprietà. È anche vero che negli ultimi anni, diciamo, la diffusione soprattutto della comunicazione cellulare ha spostato molti servizi verso appunto reti commerciali, soprattutto in questo caso però parliamo della rete mobile, della rete cellulare. Però ancora una volta vale un principio di corrette procedure. Se i dati sensibili vengono spostati da una rete all'altra senza considerare appunto che queste reti su cui vengono fatti transitare potrebbero essere intercettate, potrebbero essere controllate, c'è sicuramente un problema anche appunto di procedura e di utilizzo corretto dei metodi esistenti per la protezione dei dati, quindi ancora una volta della cifratura. Contare sul fatto che la rete, ad esempio appunto quella Telecom, fosse comunque sotto il controllo nazionale è sicuramente comunque una limitazione, quindi accorgersi adesso che quello è potenzialmente un problema sarebbe un errore e non dovrebbe comunque essere un motivo per invocare un problema di sicurezza nazionale. Bene, io ringrazio Massimo Bernaschi per essere stato con noi, buon lavoro e a presto. Grazie, un saluto anche a tutti i radioascoltatori. Il nostro prossimo ospite nel nostro studio a Milano, Stefano Quintarelli, bentornato a 2024. Grazie Enrico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Stefano Quintarelli, molti dei nostri ascoltatori lo conoscono anche su internet, è sicuramente uno dei massimi esperti in Italia di internet, di tecnologia e da poco prestato, come dici tu, prestato alla politica, deputato di Scelta Civica. Allora, partiamo proprio da questo ultimo punto, a proposito di sicurezza nazionale. Allarme esagerato, giustificato, condivisibile, Stefano? Beh, la prima cosa che voglio osservare è che il settore delle telecomunicazioni in Italia è uno di quelli a maggior presenza straniera. Infatti alcuni commentatori ricordavano che le nostre telefonate viaggiano già su reti che sono di proprietà di una volta egiziani, oggi russi, inglesi, svizzeri, e quindi dove sarebbe il problema? Il fatto è che non è che i servizi, cioè gli organismi di sicurezza italiani, si riferiscono nelle loro affermazioni alle telefonate che tutti noi facciamo, ma ai collegamenti tra le strutture sensibili, che è un dato diverso rispetto alle telefonate che tutti noi facciamo. Quindi noi possiamo continuare a fare le telefonate con qualunque operatore, non ha, di qualunque nazionalità, non ha importanza. Esistono delle aree di preoccupazione, comunque di attenzione, che vanno tenute per le comunicazioni che hanno questi soggetti istituzionali che in qualche modo hanno a che fare con segreti di Stato, no? I segreti di Stato possono essere gestiti da aziende, trattati da aziende che hanno un permesso speciale che si chiama nulla osta sicurezza, che viene rilasciato a persone e aziende e di cui vengono, per ottenere, per avere il quale, dura 5 o 10 anni a seconda dei casi, e per ottenere il quale occorre, si è sottoposti a uno scrutinio molto, molto approfondito. Ecco, non si, ci si riferisce quindi alle comunicazioni di ogni giorno, ma ci si riferisce a queste comunicazioni di queste parti rilevanti e strategiche dello Stato. Quindi in questo caso specifico l'allarme è giustificato in parte? Ma allora, tutti noi abbiamo seguito, chi più chi meno, le dichiarazioni, le rivelazioni di Snowden. Il dubbio che sugli apparati di rete esistano delle backdoor per cui possono essere fatti degli attacchi e carpire delle informazioni esiste. Quindi non è che si può guardare all'edificio solamente guardando uno dei due piani. Certo è che se ti mancano le fondamenta, cioè la rete, non avrà neanche senso occuparsi anche della parte sopra, cioè degli apparati. Oggi sugli apparati non so quanto ci stiamo occupando, però ripeto, queste sono cose che noi non conosciamo, che conoscono i servizi. Ritengo che le agenzie che sono preposte a questo, ritengo che sia assai probabile che ci sia un'attenzione molto forte alla gestione del segreto di Stato laddove questo è necessario. Quindi, seppur è vero che ci sono state intercettazioni, seppur appare che sia vero che ci siano state le intercettazioni, come ha rivelato Snowden, basato sull'intercettazione degli apparati, immagino anche che invece su queste entità che gestiscono segreti di Stato questo non sia accaduto, e per questo è importante, lo Stato ritiene che sia importante garantire la segretezza di questo. In questo senso il punto è in qualche modo giustificato. La sicurezza nazionale è uno di quei temi che richiederebbe programmazione, analisi nel tempo e non solo quando i buoi sono scappati o quando stanno per scappare. A proposito di programmazione, un tema che è molto caro agli ascoltatori di 2024 e a me in particolare, la diffusione di internet, sia come utilizzo ma anche come capacità di essere interconnessi ad una rete capace di trasferire dati ad una certa velocità, quindi la famosa banda larga. Questo dibattito che tipo di impatto ha o potrebbe avere o avrà nei confronti dello sviluppo che noi auspichiamo di una rete a banda larga in Italia? Allora, io non sono molto affezionato all'idea dell'italianità tout court, tuttavia non posso non rilevare, cioè alla fine non importa di che colore è il gatto, basta che pigli il topo. Non importa dal mio punto di vista di che colore è l'investitore, di che nazionalità è l'investitore, basta che investa. Io vedo che Telefonica è il principale concorrente di Telecom Italia, e non tanto partner, nei due mercati chiave, gli unici due mercati in sviluppo dove è presente Telecom Italia, che sono l'Argentina e il Brasile. In Argentina Telecom Italia è il primo operatore di rete fissa e Telefonica è il secondo. In Brasile Telecom Italia è il secondo operatore di telefonia mobile e Telefonica è il primo. Quindi è un diretto concorrente. Già in passato ci sono state delle pulsioni verso la nazionalizzazione in Argentina, e in Brasile è noto che vogliono sviluppare un operatore, il campione nazionale. Ora, l'autorità antitrust di questi due paesi, di fronte a un soggetto unico che controlla il primo e il secondo operatore, non resterà inattivo, imporrà una cessione che, se fatta in fretta e furia, come ha detto Bernabé, se fatta in fretta e furia sarà a sconto, quindi non si guadagnerà quello che si potrebbe guadagnare, e comunque, vista le condizioni, andranno a soggetti di quei paesi, diciamo in qualche modo legati o vicini alla politica di quei paesi, e quindi saranno operatori forse un po' meno incisivi di quanto potrebbe essere Telecom Italia. Alla fine, con un piccolo investimento in Telecom Italia, Telefonica rischia di sistemare il suo profilo di dare una buona sistemata al suo profilo di concorrenza in questi due paesi. Quindi io non credo che il principale concorrente di Telecom Italia abbia una grande intenzione a sviluppare la rete in Italia. Mi sembrerebbe strano che il principale concorrente abbia un'intenzione di questo genere. Non importa di che colore sia il gatto, basta che prenda il topo. Non importa da dove vengono gli investimenti, basta che vengano gli investimenti. Quindi ci stai dicendo che è difficile che Telefonica possa pensare di sviluppare la rete in Italia? Io credo che sia molto improbabile e credo che non esistono delle condizioni per poter imporre a Telefonica lo sviluppo della rete. La rete non è una cosa tipo gli yogurt, è una cosa che produce delle esternalità positive, come dicono gli economisti, cioè incide su tutta l'economia, è un fatto che serve di supporto a tutta l'economia. Ora, se questa cosa in qualche modo non viene sviluppata, non ne soffre solo Telecom Italia, ne soffre tutta l'economia. Quindi da questo punto di vista, non dal punto di vista che vedevamo prima militare strategico di sicurezza nazionale, sì. Ma dal punto di vista dello sviluppo economico è strategico. Purtroppo non esiste un meccanismo come invece esiste nelle autostrade, per cui si dice tu hai la concessione e devi fare questi lavori in cambio di queste tariffe. Ecco, questo nelle telecomunicazioni non c'è. Esistono queste famose golden rule che devono essere varate, che in qualche modo possono mettere per dei settori strategici dei paletti, e speriamo che questi paletti vengano messi in fretta. A questo punto la prossima domanda sarà, per generare queste esternalità positive, che cosa possiamo pensare di poter fare? Ne riparliamo tra pochi minuti. 2024. Riprendiamo questa puntata, vi ricordo che dalla prossima settimana, con l'avvio del nuovo palinsesto di Radio 24, andremo in onda nel pomeriggio del sabato, sempre su Radio 24, tra le 15 e le 16. E poi saremo in replica, e questa è una novità, la domenica alla sera tra le 23 e le 24. Naturalmente ci trovate sempre su internet, sul nostro podcast, e sono oramai migliaia le persone che ogni settimana scaricano il file MP3 della nostra trasmissione. Vi consiglio di farlo, magari per tenere traccia della nostra trasmissione anche sui vostri terminali, su smartphone e tablet. Molti nostri ascoltatori continuano a scriverci e io li ringrazio, e ci dicono come ci ascoltano. Sono, devo dire, moltissimi quelli che ci ascoltano mentre corrono, quindi quando fanno sport, e quindi è una cosa positiva unire la tecnologia con lo sport. Parliamo sempre di benessere in ogni caso. Stiamo parlando con Stefano Quintarelli del, chiamiamolo, dossier Telecom, visto che i temi sono moltissimi. Tu, Stefano, poco fa hai sottolineato una cosa molto importante, cioè che la rete internet fornisce esternalità positive a tutto il sistema paese. Lo diciamo tutte le settimane, non ci stanchiamo mai di dirlo, e se il sistema paese comprendesse tutto ciò, beh, sicuramente la nostra competitività internazionale crescerebbe moltissimo. Forse bisognerebbe spostare alcuni investimenti da infrastrutture del Novecento, pensiamo a autostrade e ferrovie, e spostarle alle infrastrutture degli anni 2000, reti digitali, fibra ottica. Allora, a questo punto, diciamo, vista la situazione finanziaria, economica, al cui interno è Telecom Italia, con le ultime notizie, come facciamo per generare queste esternalità positive? Non vedo soluzioni facili. Le golden rule non possono entrare nel merito di questo livello di dettaglio, assicurare lo sviluppo. Per carità, devono ancora essere varate, poi vedremo. Però devono anche poi superare il vaglio europeo, quindi non possono essere come paragonate alle concessioni. La possibilità che si vada verso il famoso scorporo della rete, che quindi si costruisca una società separata, poi vedremo se a maggioranza pubblica, privata, eccetera eccetera, è una possibilità, e quanto concreta può essere? Ma allora, intanto bisogna dire che dopo anni di dibattito il management di Telecom Italia ha pronto il dossier, è stato anche confermato da Patuano, dall'amministratore delegato alla Blockfest, ha pronto il dossier per lo scorporo da sottoporre all'autorità. Quindi è una decisione del management quella di procedere allo scorporo, perché questo è vantaggioso per Telecom Italia, in quanto alcuni degli obblighi pro-competitivi asimmetrici che gravano su Telecom Italia dalla liberalizzazione in poi esistono, alcuni sono relativi alle quote di mercato, altri sono relativi al fatto di controllo della rete. In questo modo questi obblighi verrebbero a cadere, quindi Telecom avrebbe mano più libera sul mercato. Quindi questa cosa il management l'aveva in qualche modo, il percorso l'aveva già avviato. È molto improbabile, anzi Telefonica ha già dichiarato più volte di essere contraria allo scorporo, è molto improbabile che questo avvenga. Certo, può anche essere disposto un sistema, delle leggi che in qualche modo conducano ad ottenere quest'esito. Sono naturalmente cose difficili e temi delicati. Indubbiamente poi, una volta scorporata la rete e quindi riconosciuto il fatto che è un monopolio naturale, e magari facendo partecipare anche gli altri che hanno dei pezzettini piccoli di rete in giro per l'Italia, di cui i grandi operatori hanno dei piccoli pezzi di rete di accesso in giro per l'Italia. Una volta ottenuto questo, si darebbe il vita a un soggetto che ha un profilo di rischio molto basso dal punto di vista dell'investimento, e dato che la Cassa Depositi e Prestiti, che è un investitore finanziario, può investire là dove i rischi sono bassi, potrebbe investire anche questo, non essere l'unico. Quindi non va confuso questo con la proprietà, no? Cassa Depositi e Prestiti fa degli investimenti finanziari in settori non a rischio. Se questo è un settore a rischio ed è a beneficio del paese, perché no? Non è detto che debba esserne l'unico o anche di maggioranza. Senti, di fronte alla prospettiva che si vada verso la creazione di una società che si occupi della rete, il tuo parere è: così come per la sicurezza, come per lo sviluppo in generale, quindi sei molto neutrale, laico rispetto a una possibile proprietà pubblica, o pensi che questa rete dovrebbe essere pubblica e quindi molto probabilmente più neutrale rispetto a tutti i competitor? No, io sono molto laico, cioè non importa di che colore il gatto, ben vengano anche gli investimenti stranieri sulla società della rete. Il controllo deve essere, diciamo, se si tengono in considerazione le segnalazioni fatte dal DIS, quindi per la sicurezza nazionale, il controllo deve essere in mani italiane, ma potrebbe benissimo, esistono diverse formule finanziarie per cui si possono ottenere capitali stranieri investiti anche mantenendo un controllo italiano, quindi non necessariamente dello quindi Stato. Quindi non vedi, insomma, un possibile rischio di, diciamo, oligopolio, quindi pochi operatori che investono e di fatto poi controllano. Ma io credo che un soggetto di quel genere andrebbe collocato in borsa e sicuramente il collocamento sarebbe un grandissimo successo. Un flash, il tuo parere sulla privatizzazione, certo andiamo indietro di 16 anni, però è stata fatta male. Ma, magari è stata fatta non pensando di mantenere pubblica la rete. Allora, è chiaro che se io vendo un monopolista verticalmente integrato, ovvero che dispone della materia prima, della vendita al dettaglio, ed è quello che fornisce la materia prima anche a tutti i concorrenti, è chiaro che questo soggetto ha un vantaggio rispetto agli altri e quindi vale di più. E quindi chi lo vende guadagna di più, cioè lo Stato italiano. In quel momento i soldi servivano per entrare in Europa. Dal punto di vista della sostenibilità del mercato, però abbiamo visto quel sbagliata. Che è successo. Certo. Per arrivare sempre alla famosa banda larga che dovrebbe arrivare nelle aziende, poi in prospettiva anche nelle case, tu pensi che il ruolo delle regioni, quindi la costruzione di reti o piccole reti, magari partendo dalle zone dove ci sono più aziende, possa essere una soluzione? È sicuramente un tampone, non tanto una soluzione con la S maiuscola, ma è sicuramente un tampone. E pensi che le regioni dovrebbero accelerare questi investimenti che erano partiti qualche anno fa, poi si sono un po' rallentati, anche come attenzione politica? Io non credo che... A parte gli investimenti finanziari, come dicevo prima, su investimenti non a rischio, io non credo, il mio punto di vista personale, però ammetto che esistono anche altri punti di vista, è che il pubblico non dovrebbe investire nella realizzazione delle infrastrutture, dovrebbe dettarne le regole e assicurare e curare che le regole vengano implementate, quindi determinare le linee guida e favorire il fatto che siano degli investimenti privati a fare questo, sorvegliando molto accuratamente, cioè regole ben fatte e ottimo controllo. In passato purtroppo non è stato così, né per le regole ben fatte né per il controllo. Ti faccio una domanda sul dibattito politico. Oggi è molto acceso perché la notizia è fresca. Tu pensi che, guardando anche alle competenze medie che ci sono in Parlamento, possa continuare questo dibattito oppure ce lo scorderemo presto? Cioè magari solo a 2024 continueremo a farlo. Che continueremo a parlarne a 2024 mi pare una certezza. Ma allora diciamo che intorno a Telecom Italia, in Italia, tra dipendenti e indotto abbastanza diretto, gravitano più o meno 200.000 persone, 200.000 famiglie sono coinvolte in questa operazione che sta succedendo. In questo momento non ho sentito ancora la voce forte dei sindacati, per cui finché viene percepito come un fatto finanziario o una cosa che non si capisce bene relativa alla sicurezza nazionale, Sì, fa un, pare, fa, può fare una fiammata legata alla notizia dell'evento, eccetera. Io penso che andando avanti il tema occupazionale e di sviluppo dell'infrastruttura comincerà a venire fuori, per cui credo che magari ci sarà un calo di attenzione anche per le vicende che purtroppo attanagliano la politica in questi giorni, però passato questo il tema tornerà in modo deciso nel dibattito. E qual è il tuo parere sull'eventuale imposizione di regole per magari evitare certi tipi di investimenti? Quindi in questo caso mettere regole, vincoli sul settore delle telecomunicazioni. Ma la questione è che negli Stati Uniti, per esempio, c'è una meta regola, e la meta regola è che gli investimenti stranieri devono essere passati al vaglio di un apposito comitato che si chiama il Committee on Foreign Investments in the United States, cioè il CFIUS, che pubblica un rapporto annuale. Tra il 2006 e il 2011 questo comitato è intervenuto in 37 operazioni legate al settore delle telecomunicazioni, imponendo dei vincoli. Quindi non mi sembra una cosa sconvolgente che un paese consideri un settore strategico e ponga dei vincoli. È una cosa che accade anche nelle economie che consideriamo più liberali e più ricettive di investimenti. Magari non andrebbero fatte all'ultimo minuto. Infatti questa è una meta regola, come dicevo, nel senso che passano al vaglio del comitato e il comitato esamina e pone dei vincoli. Quindi non sono vincoli posti ex ante, ma c'è un comitato che pone dei vincoli. Sì. È un fatto, cioè è una struttura interessante. No, loro ci hanno pensato per tempo e se lo sono dati, però non fa scandalo il fatto che vengano imposti dei vincoli. Certo, certo. Grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie Enrico, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Ma naturalmente il dibattito è molto importante, molto interessante. Scriveteci il vostro parere, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, anche per esprimere un vostro parere, e magari alcuni dei pareri verranno anche messi davanti ad un microfono, quindi segnalateci le vostre posizioni. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco e parleremo di un premio giornalistico. Voi vi domanderete, ma perché 2024 si occupa di giornalisti? A tra poco. 2024. Abbiamo parlato di sicurezza all'interno di questa puntata e la sicurezza non è solo un fattore tecnologico, ma buona parte della sicurezza riguarda i nostri comportamenti. Allora, Google, che un paio di giorni fa ha compiuto 15 anni di vita, questa azienda globale, internazionale, gigante, su internet ha fatto una ricerca che dice che nel 2013 soltanto il 35% degli italiani ha aggiornato il proprio software antivirus, e lo diciamo sempre, una delle cose più importanti è aggiornare i software. Il 26%, quindi un quarto di chi naviga e chi usa internet, ha cliccato su un link di spam. Al 26% degli utenti capita di abbandonare il proprio computer senza eseguire il logout da una sessione attiva, e allora in questo caso quasi un terzo dei vicini, colleghi di lavoro o partner in casa hanno approfittato dell'assenza per andare a visitare la casella di posta elettronica. Ma la cosa più allarmante è che ci sono ancora tantissime persone che non cambiano la password, utilizzano nomi di password facilmente individuabili. Hanno fatto una classifica, allora una percentuale molto alta, l'11% utilizza una data importante, data di nascita, data di matrimonio, eccetera eccetera, insomma facilmente individuabile, oppure addirittura il nome di un animale, la data di nascita di un parente. Ma la cosa che sorprende di più, al quarto posto c'è, pensate, il 10% delle persone dice utilizzo come password la parola password. Ma si può, ma non lo so. Poi insomma, molti che utilizzano il nome del figlio, il luogo di nascita, ma non si deve, bisogna essere un po' più severi e poi cambiare le password. Più della metà degli intervistati, il 61%, scrive le proprie password da qualche parte, quindi se poi uno arriva da quella parte si prende tutte le password, insomma. Vabbè, a proposito di Google, Questa settimana c'è stato un fatto che ci ha da un certo punto sorpreso, perché uno dei premi giornalistici più prestigiosi in Italia, il premio È Giornalismo, è stato assegnato a Google. Allora noi ci siamo domandati, ma per quale motivo? Giancarlo Aneri, saluto Giancarlo Aneri, che è uno dei fondatori del premio È Giornalismo. Benvenuto a 2024. Buongiorno, sono uno dei fondatori che nel 94 ha pensato a questo premio e gli altri tre colleghi, amici, perché io non faccio il giornalista, sono imprenditore, erano Montanelli, Biagi e Bocca. A proposito di giornalismo, voi avete premiato in questi anni tanti colleghi, tanti giornalisti che si sono distinti per il loro lavoro, un lavoro importante, lo diciamo spesso, anche per l'economia, per il buon funzionamento dell'economia di un paese, per la democrazia di un paese. E insomma, quelli che fanno bene questo mestiere vanno giustamente premiati. Quest'anno la scelta è stata una scelta diversa e sicuramente, dal mio punto di vista, dal punto di vista di molti, sorprendente. Voi avete premiato Google. Io le do anche la giustificazione. Esatto, per quale motivo? Ecco, quando è nato il nostro premio, il premio non è nato per premiare solo un giornalista che si è distinto nel suo lavoro, ma mandavamo messaggi, perché il mondo del giornalismo è quello che deve mandare i messaggi alla gente. Le dico di più, noi abbiamo premiato 7 anni fa Striscia la Notizia, dicendo che era il telegiornale più credibile in Italia. La Bocconi l'anno scorso ha fatto una ricerca e a maggioranza i telespettatori hanno detto che è il telegiornale più credibile. E questo, diciamo, dovrebbe sì. far nascere molti dubbi alla categoria, sì, di giornalismo. Comunque, sì, diciamo, non entriamo in questo dibattito. Però sì, arrivo, sì, a Google per dire, esatto. Google non è tanto il premio per dire è giornalismo a Google, è il messaggio che noi vogliamo dare. Cioè Google, noi abbiamo 18 anni di storia, Google perciò è più giovane di è giornalismo perché ne ha 15, però Google ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione. Perché questo messaggio premiamo Google? Perché secondo noi Google e la stampa tradizionale si devono parlare per trovare insieme una strada che sia il futuro positivo per tutti e due. Le faccio una domanda collegandomi anche a quello che lei ha citato, cioè il premio che voi avete dato a Striscia, ma a maggior ragione oggi in cui premiate Google, si tratta anche del riconoscimento di una crisi molto profonda, non solo economica, perché naturalmente c'è anche tutto il dossier economico che ha messo in crisi il sistema dell'informazione, ma proprio anche una crisi della professione, degli editori, e quindi questa è un'ulteriore conferma di fatto. Sì, le dico di più, che nel discorso che facevo prima, che spero che si possano parlare, trovare una via comune Google e la stampa tradizionale, il primo riferimento che devono cercare è quello dei giovani che non leggono più. A me piange il cuore, io sono un maniaco dei giornali, io comprerò sempre il giornale di carta, però se il giovane non va in edicola perché non è abituato e non lo compra, speriamo che attraverso Google riesca a formarsi una sua cultura, perché si abitua a leggere gli articoli magari sull'iPad. Certo, senta, c'è anche un aspetto preoccupante forse di tutto ciò, nel senso che noi siamo abituati, o eravamo abituati, ad un mondo dove c'erano tanti editori, ancora oggi ci sono tanti editori, anche i canali di distribuzione delle informazioni erano diversi e non controllati da un unico soggetto. Il fatto che comunque Google abbia una forza pervasiva su questi strumenti, su smartphone, su tablet e anche nel mondo di internet in generale, sui computer, è sicuramente anche una fonte di preoccupazione, visto che quando si parla di informazione si parla poi anche di pluralità, che è una parola importante. Ma sa, Google prende i contenuti dei giornali, difatti quelli che lo criticano dicono che ruba le notizie dai giornali, e ci sarà sempre la materia prima, che cioè il giornalista che scrive un articolo prestigioso che Google poi riporta nel suo motore di ricerca, ma magari quel giornalista ha scritto in un giornale che venderà molto meno copie di oggi, ma che avranno un grande ruolo nella società. Cioè io dico che la qualità del prodotto deve essere sempre quella che i giornalisti fanno liberamente. La distribuzione cambierà e Al Varian, quando ha ritirato il premio, ha fatto un piccolo esempio, ha detto il giornale ha un costo superiore al 50% per la carta e per stamparlo. Nella rete il costo non c'è. Può essere un'occasione per dire, magari nella rete il giornale uno se lo paga 30 centesimi invece di 1,30 euro perché i costi sono diminuiti. Certo, questo non c'è dubbio. No. Il riferimento che facevo io e la preoccupazione è che poi Google oggi è sostanzialmente neutrale. Sì. Non sappiamo che cosa succederà nel futuro, diciamo così. Speriamo, cioè io sono convinto che il successo di Google è superiore alle attese che avevano anche i fondatori, perché in 15 anni lei vede quello che è successo. Però devono anche essere consapevoli che hanno un ruolo sociale. Saranno loro a trovare le regole che salvaguardano il lettore o salvaguardano la persona, perché più sei importante più devi guardare questi particolari che non sono piccoli ma che sono determinanti. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questa puntata in podcast, questa è la versione podcast del nostro programma. Torniamo la prossima settimana, dalla prossima settimana saremo in onda per un'ora il sabato pomeriggio tra le 15 e le 16 e la domenica alla sera tra le 23 e le 24 dopo le notizie di GR24. Bene, tutto, se volete scriverci prendete il vostro tablet, il vostro smartphone, il vostro computer e digitate 2024@radio24.it. Preferiamo avere le email anche perché così ce le cataloghiamo tutte, con un po' di pazienza cerchiamo di rispondere a tutti, oppure potete dialogare con noi anche attraverso Facebook, attraverso Twitter, il mio account è chiocciolina e che sta per Enrico _ Pagliarini. Torniamo la prossima settimana, grazie ancora per la vostra attenzione, buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024.